E benvenuti alla terza puntata di Cialtroni nello spazio. La trasmissione culturale informatica dei su Radio Onda d'Urto. Ciao a tutti. Allora, siamo tornati per la terza settimana, incredibilmente. Oggi andremo a parlare, concluderemo il discorso iniziato la settimana scorsa su Thunderbird, quindi diciamo che il software presentato oggi sarà ancora Thunderbird. Parleremo di un progetto del web che ha dei risvolti culturali molto interessanti, collegato anche al discorso di Booming fatto la scorsa settimana, che è Liber. Parliamo poi di un progetto locale, di cui ci parlerà Marco, che è Numerica. E infine tenteremo di fare un discorso sui formati aperti e sull'utilità di utilizzare questi formati nello scambio di informazioni e nella memorizzazione dei dati. Ma prima di questo io chiederei subito a Matteo, il nostro fantastico consulente musicale, di presentarci il CD che ascolteremo durante tutta questa trasmissione, e poi ci saranno altri brani che presenteremo via via. Ciao a tutti, il pezzo che c'è sotto sono gli Odric Tentacles, londinesi, dub psichedelico. Mixati. Oh, diamo il via a questa terza puntata. Primo argomento si riallaccia alla puntata della settimana scorsa e andiamo a parlare di Thunderbird, che ricordiamo è un programma di posta elettronica. Ce ne parla Marco. Allora, ciao a tutti innanzitutto. Allora, Thunderbird è un programma di posta elettronica e è prodotto da quelli di Mozilla, che sono i produttori del più famoso Mozilla Firefox, il programma per navigare in internet. Thunderbird è, diciamo, il gemello ideale di Firefox, perché è un ottimo programma per gestire la propria posta elettronica e un programma che ha delle solide radici basate nel software libero e quindi ha tutta una serie di caratteristiche di sicurezza e di garanzia, appunto, che il codice sia privo di errori, o meglio che sia privo di chiamate segrete che possono attivarsi, e comunque che sia, diciamo, controllabile per essere appunto verificato che non abbia problemi di sicurezza. Oh, come si può installare Thunderbird sul proprio computer? Allora, si scarica innanzitutto il programma dal sito che abbiamo dato anche l'altra volta, www.mozillaitalia.org. Esiste la versione italiana e quindi non dovrebbe esserci grossi problemi. Si scarica direttamente l'installer, quindi è esattamente come un programma proprietario, comunque, che si acquista. Ecco, ricordiamo che si può installare sia su sistemi operativi Linux che su sistemi operativi Microsoft, quindi Windows, più famoso per ora. Poi alla fine del nostro ciclo di trasmissioni sarà sicuramente più famoso Linux di Windows. E allora, vabbè, il funzionamento di Thunderbird è quello di un classico programma di posta, ci permette, però ha, diciamo, delle caratteristiche che ci aiutano fondamentalmente nel riuscire a capire cosa siano i messaggi di posta indesiderati rispetto a quelli invece desiderati. I messaggi di posta indesiderati sono il famoso spam che riceviamo, probabilmente tutti voi che avete una casella di posta, noi che abbiamo una casella di posta abbiamo spesso messaggi che pubblicizzano Viagra o altre amenità strane, che diciamo che sono abbastanza fastidiosi, perché a volte diventano essere più messaggi di spam, ovvero quelli non desiderati, rispetto ai messaggi reali che ci arrivano. Appunto, Firefox scusate, Thunderbird ha una modalità che sotto nostro insegnamento gli permette di capire cosa secondo noi è spam e cosa non è spam. Per cui ha, diciamo, dopo un breve periodo di insegnamento da parte dell'utente, riesce a capire da solo come cosa è spam e che cosa non è spam. Allora, Thunderbird è particolarmente utile, ha una serie di funzionalità che lo rendono particolarmente agile all'utilizzo, può fare ricerche all'interno della posta che è arrivata, raggruppare i messaggi, fare diverse funzioni di filtro che sono abbastanza facili da configurare anche per chi non è particolarmente esperto. È possibile impostare la visualizzazione delle immagini in automatico, filtrare certi tipi di messaggi troppo pesanti, scaricare solo gli header dei messaggi, quindi se per esempio avete una connessione lenta potete scaricarvi solo il titolo del messaggio e il contenuto solo successivamente. Quindi questo è particolarmente utile se avete dello spam o comunque se ricevete molta posta di questo tipo, perché oltre a eliminarla successivamente potete anche non scaricarla del tutto, che è forse la funzione più interessante. Ecco, poi effettua dei controlli particolari sugli allegati che lo rendono intrinsecamente più sicuro di programmi più famosi come ad esempio Outlook Express, che è stato causa soprattutto quest'anno del diffondersi enorme di alcuni virus che automaticamente replicavano, insomma, spedendosi a tutti gli indirizzi che trovavano nella posta elettronica e arrivavano proprio come allegati che inavvertitamente aperti dagli utenti, quasi senza nemmeno essere, insomma, avvisati, spedivano questo virus in giro per il mondo. E volevo ricordare un'altra cosa caratteristica, una caratteristica abbastanza importante di Firefox, che è il Thunderbird, che è appunto il plugin Enigmail, che permette all'utente di avere e di utilizzare un sistema di crittografia avanzatissimo e estremamente sicuro, che rende i propri messaggi di posta diciamo sicuri da occhi indiscreti. Ovvero sì, il messaggio di posta viene crittato e soltanto colui a cui è indirizzato il messaggio può aprire questo messaggio e leggere il contenuto. Ecco, attenzione che Enigmail non si configura benissimo nella versione italiana, quindi ma per il momento è ancora un attimino in sviluppo, nel senso che penso entro il prossimo mese dovrebbe esserci la versione in italiano definitivamente stabile. Nella prossima puntata Marco ci parlerà di che cosa significa crittografare. Esatto. L'argomento lo parleremo sicuramente in una trasmissione futura, perché... Ecco, allora propongo che adesso Matteo ci presenti un brano musicale, oltre a quello che abbiamo tenuto come tappetino finora. Cosa ci dici di ascoltare? Ecco, qui torniamo in casa, Made in Italy, Royal Heights, progetto uscito dopo il Casino Royale. Andiamo ad ascoltarci la seconda traccia di questo special team, Radio Royale, featuring BB Day and Soul Kingdom. Check it, ora tu ricevi. Check, ora tu ricevi. Casino Royale, la realtà dei Casino Royale è abbastanza movimentata, visto che si occupano di musica a 360 gradi. Hanno prodotto drum and bass, ancora oggi producono drum and bass, hanno prodotto hip hop, hanno prodotto un po' di tutto, insomma. Questo disco qui che vi abbiamo presentato è uscito nel 99. Royal Heights è un progetto drum and bass più che altro, che non hip hop o quant'altro. Appunto anche i Casino Royale hanno un fantastico sito pieno di musica, ci dice, appunto, con il sito è www.casinoroyale.it, da cui si può scaricare gratis la loro musica. C'è la possibilità, appunto, di far tutto ciò. E noi continuiamo con la trasmissione Cialtroni nello spazio. Adesso andiamo a presentare due progetti molto diversi tra di loro. E iniziamo con il presentare il progetto numerica.org. Allora, numerica.org o numerica, adesso c'è un po' una guerra sulla pronuncia, è fondamentalmente un progetto di visibilità in internet, ovvero sia è un progetto nato da noi del Circolab un paio d'anni fa e avevamo appunto deciso di utilizzare questo dominio numerica.org per permettere a chiunque volesse di avere una casella di posta elettronica, di avere un proprio sito web, di creare una sua mailing list e vabbè, chi più ne ha più ne mette. Adesso siamo abbastanza aperti verso anche cose future, dimmi pure. Ma perché un nuovo servizio di posta quando a fine ce ne sono parecchi, tutti lo sanno, si può andare sul sito di Libero, di tutti questi, che Virgilio, non so quelli tra Yahoo, Hotmail, insomma tutti questi qua, che differenza c'è? Beh, che è forse una maniera un po' diversa di stare in rete, lontano da entità commerciali, da entità che ogni anno ti propinano centinaia o migliaia di mail di pubblicità, che ti obbligano ad andare a guardarti la posta soltanto sul loro sito, quindi pippandoti un banner gigantesco sopra il titolo, un altro banner a destra, un banner a una sinistra, banner da tutte le parti. Queste cose sono abbastanza fastidiose, quindi noi col progetto Numerica abbiamo voluto dare un'alternativa, diciamo, libera all'accessibilità alla rete. Lo spazio web su Numerica lo forniamo gratuitamente a chiunque, come anche le caselle di posta elettronica, le mailing list, quindi poi diciamo, quando qualcuno vuole un servizio del genere ci passa una mail nel giro di una giornata, neanche qualche ora, appena qualcuno di noi se ha voglia di sbattersi un attimo, appunto di fare questa casella di posta, questo sito web, in un attimo abbiamo fornito tutto alla persona che vuole rendersi visibile in internet. E poi diciamo anche che quando si fa richiesta dell'indirizzo a Numerica non è necessario sottoscrivere contratti particolarmente vincolanti. Di fatto, quando qualcuno chiede la casella di posta o lo spazio, è un po' come se fosse il proprietario della casella di posta, nel senso che nessuno andrà non esiste quella clausola che c'è in tutti i contratti, che a piacimento del fornitore lo spazio potrà essere il servizio potrà essere revocato senza preavviso. Sì, infatti quello sono tutto, diciamo, dentro logiche commerciali associate al fatto che comunque dare una casella di posta gratuita alle entità commerciali ovviamente costa, e diciamo lo fanno non perché sono dei buoni samaritani, ma fondamentalmente perché vogliono prendersi dei soldi in pubblicità o in altre cose. Allora, comunque ricordiamo, appunto, facciamoci un attimo di pubblicità. Allora, per qualsiasi richiesta di mailing list o di casella di posta elettronica o qualsiasi cosa, basta andare sul sito di Numerica, dove si possono fornire le informazioni direttamente da web con la richiesta dei servizi erogati, e niente, nel giro di qualche ora di solito riusciamo a servire alle richieste, come anche Alessandro ci può confermare. Sì. Beh, tenete sempre presente che il servizio è comunque gestito a livello volontario, come è specificato anche come prefazione alla richiesta dei servizi, che anzi è assolutamente gradita alla collaborazione di chiunque voglia collaborare e si sente di avere le capacità di farlo, e quindi insomma è richiesta solo un po' di pazienza in caso. Comunque è vero, il servizio è rapido e non ci si può lamentare. Grazie, dopo tutto va bene. Il prossimo progetto di cui andiamo a parlare è invece Liber Liber. L'associazione Liber Liber e in particolare alcuni dei progetti che ci sono all'interno. Il progetto più importante, forse anche quello più famoso, è il progetto Manuzio. Allora, Liber Liber è il, risponde al sito liberliber.it, www.liberliber.it. E al suo interno il progetto più interessante è il progetto Manuzio, ovvero la trascrizione in maniera digitale di numerose opere che sono state appunto digitalizzate nel corso del tempo, costruendo quindi una biblioteca online, sia di libri già pubblicati che di riviste e tesi di laurea. Tutti i file sono possibili da scaricare attraverso facili e comodi formati che permettono di leggerli sul computer e anche di stamparli. Il progetto Manuzio, che fa parte appunto, che è il titolo del progetto che che racchiude questo metodo di digitalizzazione che rende disponibili i libri online, ha l'ambizione di concretizzare un ideale, la cultura a disposizione di tutti, e quindi rientra pienamente nella filosofia che vogliamo portare avanti con questa trasmissione. All'interno di questo progetto ci sono sia i capolavori della letteratura che manuali, tesi di laurea, riviste e altri documenti in formato elettronico che sono appunto disponibili in ogni momento, in tutto il mondo, gratuitamente e con anche degli accorgimenti tecnici che ne permettono la fruibilità anche a non vedenti e altri portatori di handicap. Ecco, come abbiamo più volte detto anche durante questa trasmissione, è sempre una questione di libertà, è anche una questione di libertà la lotta contro il copyright, che in questo momento vige fino a 40 anni, 50 anni dalla morte dell'autore. E insomma, anche per quanto riguarda le opere elettroniche, questo diritto è sancito insomma dalla legge, anche se alcuni autori hanno, come abbiamo presentato anche nella scorsa puntata, deciso di non avvalersi di questo diritto e di mettere a disposizione gratuitamente i loro libri per chi volesse semplicemente consultarli, quindi per chi non vuole lucrare sul lavoro di altri. In sostanza Liber Liber vive del lavoro di volontari che trascrivono opere che non sono più sottoposte a copyright, quindi vabbè, tutti i grandi classici, come appunto è stato detto, opere che gli autori rilasciano, anche se questo diciamo non è proprio la cosa più frequente, le tesi di laurea sono già pubbliche, comunque devono essere trascritti ed è quello che fanno normalmente le case editrici. In questo progetto appunto le persone che collaborano trascrivono proprio manualmente le opere e le rendono pubbliche per tutti, quindi è un lavoro che possono fare tutti quelli che sanno scrivere su una tastiera, per cui siete tutti invitati a farlo se vi appassiona la letteratura e vi appassiona la possibilità di rendere libera a tutti la cultura. Se invece qualcuno vuole sostenere questo progetto ma non ha il tempo per mettersi fisicamente al computer a digitare, può acquistare un DVD o anche dei CD-ROM con all'interno il contenuto dei libri che sono stati pubblicati da Liber, o anche semplicemente una maglietta o un mouse con il logo dell'associazione. Si può anche navigare in internet attraverso un sistema che poi appunto dà i proventi al sito Liber, e ci sono tutte le istruzioni per farlo anche sul sito. Oppure semplicemente anche donare dei soldi all'associazione, ci sono tutti i riferimenti all'interno del sito www.liberliber.it. Come possiamo notare dal sito di Liber, per prendere spunto anche da questo sito, non troviamo pubblicati dei file .doc. E la domanda, insomma, è abbastanza spontanea, insomma, perché non viene utilizzato comunque il formato con cui gli utenti sono più usi trasferire i documenti. Allora, non viene usato il .doc perché il .doc è un formato proprietario, quindi per poterli aprire, chiunque scarica questi file deve aver installato Word fondamentalmente, quindi la suite OpenOffice e la suite Microsoft Office, oppure qualcosa che cerca di fare lo stesso lavoro dell'Office di Microsoft, senza che Microsoft abbia passato nessun tipo di informazione su questi documenti. Allora, troviamo invece dei file in formato RTF, TXT, HTML, zippati o meno, e questo perché tutti questi formati sono aperti, pubblici, cioè esistono degli standard pubblici di questi formati, quindi chiunque può fare un file di questo tipo senza pagare un bel nulla a nessuno, e chiunque può scrivere un programma che può aprire o modificare questi file. Esatto, quindi abbiamo la libertà di fruire del formato del file come più ne vogliamo, senza. E appunto per queste ragioni anche il progetto LiberLiber si rifiuta di utilizzare formati proprietari, quindi cioè, non permetterebbe, utilizzando formati proprietari a quel punto si dà comunque il permesso a questi che fanno questi formati di continuare ad andare avanti nella loro direzione, mentre invece questa è una pratica da eliminare, questo dell'uso dei formati proprietari. Certo, ricordiamo che la guerra, perché è una vera e propria guerra quella dei formati file, che spesso le grandi multinazionali combattono tra di loro generalmente, e è una guerra forse più importante dei software stessi, quindi paradossalmente è più importante il punto doc del Microsoft Word, perché tanto più i formati vengono utilizzati, tanto più diventano potenti. E tanto più una persona non può rinunciare a utilizzare Microsoft Word quando si trova che tutti gli mandano dei formati punto doc. Quindi perché se li vuole aprire, prima o poi si deve installare Microsoft Word. E vabbè, per il punto doc le soluzioni di ripiego esistono, egregie soluzioni di ripiego direi. Ci sono altri formati che invece sono più complessi, tanto per dire il formato MPEG che viene utilizzato per tutte le trasmissioni digitali che vengono trasmesse oggi via satellite o terrestre. O DVD, anche dei DVD. Dei DVD e tutto quanto sono formati per cui chi produce qualsiasi informazione in questo formato deve pagare delle royalties a chi l'ha inventato. E generalmente questo si trasforma poi in denaro che entra nelle casse delle multinazionali che hanno brevettato questo sistema. E diciamo, cioè, questo vabbè, potrebbe essere anche un ragionamento non del tutto sbagliato, però appunto quello che noi invece spingiamo sono invece l'utilizzo di formati che hanno le stesse caratteristiche tecnologiche di funzionamento dei formati chiusi, per cui abbiamo dei formati audio che possono comprimere l'audio senza, o diciamo, caratteristiche tecniche simili, soltanto che non sono coperti da copyright, da brevetto. Da brevetto, il formato non è brevettato, per cui a quel punto chiunque può utilizzarlo per, ad esempio, per fare più quello che non vuole. Al posto di comprimere i vostri file o comunque di i vostri CD, se li mettete sul computer come MP3, è estremamente consigliabile utilizzare il formato OGG. Non solo è più performante, ma è pure aperto. Quindi non, in caso se vi scaricate un lettore MP3 o non dovete craccarlo, ma vi scaricate un lettore OGG che è già gratuito. E tra l'altro gli OGG sono ad esempio supportati da quasi tutti i player di musica, con le scatoline con dentro l'hard disk che ti permettono di ascoltare musica mentre te ne vai in giro. Sì, sì. Noi siamo in chiusura, ma ascoltiamo la presentazione finale, che sarebbe dovuta andare all'inizio, dell'associazione LiberLiber e del progetto Gutenberg, che si sono messi insieme per costruire un software GPL finalizzato alla creazione e alla fruizione di libri elettronici in formato open book. Ricordiamo che la maggior parte dei dei software di lettura di ebook è proprietaria oggi. È per questo che è nato il progetto LiberNew, proprio per produrre un lettore di ebook che non sia proprietario. Ascoltiamo quindi la presentazione. Dal novembre 2001 LiberGNU si occupa di promuovere lo sviluppo di strumenti software per il formato Open eBook. Nell'ambito di questo progetto l'associazione LiberLiber opera a contatto con gruppi italiani del software libero quali Gutenberg, OpenOffice Italia, Free Software Foundation Italia, Linux User Group Roma e Bononi.it. Riteniamo sia fondamentale e indispensabile l'implementazione di un formato digitale aperto e standard nel campo dell'editoria elettronica. Questo per ragioni di portabilità, di accessibilità, ma soprattutto di libertà del nostro patrimonio culturale e letterario. È per questo che stiamo sviluppando Openberg, un reader libero per il formato open ebook, e stiamo soprattutto studiando e valutando le metodologie di conversione del corpus manuziano in questo nuovo formato. E come sentite dalla nostra fantastica sigla, siamo in chiusura. Grazie per averci sopportato anche per la terza puntata. E ci sentiamo la settimana prossima, sempre il mercoledì. Il venerdì in diretta e il mercoledì in replica, cioè il venerdì la prima puntata e poi la replica il mercoledì. Alle 16 il venerdì, alle 13 il mercoledì. Ciao a tutti da parte di Matteo. Cioè, il Troni nello spazio vi aspetterà la settimana prossima.